coscienza adesso è fuori città. Si meritava un giorno libero di questi tempi. Le possibilità son rare come questo sigaro. Così perfetta, chiedi quello che vuoi e io vedrò di accontentarti. Magari vestiti di banda che poi provvederò anche a leccarti. Il mio veleno non fa rumore, il mio veleno sì, il mio veleno non fa rumore, il mio veleno sì, il mio veleno. Interesse per le cose che sai o quelle che mi stai dicendo non potrebbe essere più vicino oramai. Al grado zero sto fingendo. Le mie intenzioni sono altrove, lo sai. Sapessi quel che sto pensando. Magari vestiti di miele ma poi continua quel che stai facendo. Il mio veleno non fa rumore, il mio veleno sì, il mio veleno non fa rumore, il mio veleno sì, il mio veleno.